Buonasera da chi ci ascolta in radio. Allora, ammetto che è stata una giornata lunga, vero? Quindi un po' di sfogo. Bella calda. Grazie. Va bene, allora, eccoci qua. Stasera presentiamo il libro di Davide Caselli, che si chiama Esperti, come studiarli e perché. E ho scritto quello che dirò per presentarti, perché tendo a perdermi poi quando parlo e a dilungarmi e non lo voglio fare. Ed è un libro che inizio dicendo che è un libro molto bello, che a me personalmente mi ha stimolata molto a riflettere sia sul piano di professionale di ricerca che sul piano, diciamo, di personale, su come diciamo avere un'autoriflessione quando mi interfaccio con il mondo della ricerca e anche al di fuori della ricerca. Allora, Davide è attualmente ricercatore a tempo determinato all'Università degli Studi di Bergamo, ha conseguito il dottorato di ricerca in sociologia all'Università di Torino e precedentemente al suo percorso di ricerca è stato operatore sociale per 7 anni in un'associazione per le politiche abitative a Milano. Ed è durante questa esperienza, se non sbaglio, che inizia e si intensifica il desiderio di indagare ancora di più il lavoro nel terzo settore e la trasformazione del welfare abitativo, facendone oggetto poi di ricerca accademica. Nel libro Esperti, Davide mette a fuoco, alla luce appunto della sua esperienza, la graduale delegittimazione del ruolo degli operatori sociali nell'articolare ed erogare servizi di welfare abitativo nel capoluogo lombardo. Lui si interroga sull'ascesa di nuovi poteri, appunto i poteri esperti, che sono incarnati e veicolati da tutte queste reti che in realtà facciamo difficoltà ad identificare e, come vedremo, grazie a Davide oggi avremo un po' meglio, diciamo, un'idea di chi sono queste persone e cosa fanno. Diciamo che il libro affronta diverse domande, tante, e lo fa con un dettaglio approfonditissimo e una ricerca accademica che parla tantissimo con diversi sociologi che hanno, diciamo, fatto un po' la storia della sociologia e anche poi quelli più recenti. Si chiede perché mobilitare gli esperti, perché ridefinire il welfare in termini di coesione sociale, cosa vuol dire la coesione sociale e chi sono le reti e i soggetti che si incontrano e si scontrano in questi processi. Lui esplora tutte queste domande attraverso un approccio sociologico critico e usa tantissima complessità, che è secondo me il punto di forza del libro, perché non prende mai niente per scontato quando appunto definisce gli esperti e quando parla di come si interfacciano con altre realtà. E mostra che è possibile costruire un ponte per indagare nello specifico la relazione tra l'ascesa di questi gruppi di consulenza e le nuove pratiche di gestione ed erogazione dei servizi del welfare. Sappiamo tutti che il welfare è sempre più privatizzato, sempre più inaccessibile e come ci spiega Davide, fa difficoltà ormai a rispondere ai bisogni dei cittadini. Quindi lui in tanti sensi ribalta la concezione del professionista esperto come colui che detiene un monopolio sul campo del welfare. E facendo così lui ci spiega un po' come arrivano ad avere dominio gli esperti. Per costruire la loro expertise, gli esperti si devono adattare in realtà a una realtà che li circonda. Non è che arrivano e determinano da un giorno all'altro delle dinamiche, delle logiche nuove. Ci sono dei processi molto complessi che portano a questa ridefinizione. Questa ridefinizione praticata dagli esperti dà forma a degli scontri, a un conflitto che contraddistingue anche, diciamo, soprattutto operatori sociali che devono lavorare con queste nuove logiche e i destinatari delle politiche del welfare. Nel libro Davide esplora nel dettaglio le percezioni appunto che gli operatori sociali hanno e presenta diciamo anche come chi lavora nel settore da più tempo ha visto questi cambiamenti, come li interpreta. E infatti adesso gli andremo a chiedere anche di raccontarci un po' gli operatori sociali, come hanno raccontato il loro lavoro. Finisco col dire che vi invito a leggere questo libro per snocciolare da vicino gli inizi e gli sviluppi di processi che spesso definiamo un ostacolo al lavoro nel terzo settore, al lavoro di attivismo e di militanza. La frammentazione politica, la perdita di fiducia nella politica dal basso e nei servizi da essa erogati, l'ascesa al potere di fondazioni bancarie, sono tutti processi che dobbiamo riuscire a snocciolare insieme in maniera collettiva, facendo anche uso di dialoghi interni ai collettivi e alle realtà e parlando con la ricerca accademica, che anch'essa cerca di rispondere alle stesse domande che ci facciamo noi quotidianamente. E quindi adesso io vi lascio a Davide, iniziando con una domanda super classica, ovvero raccontaci un po' il percorso di ricerca che sta dietro alla stesura del libro e di com'è fare osservazione partecipata, come magari possiamo farla anche noi nella quotidianità, e forse se ti va la parte più bella e la parte meno bella di questo processo di ricerca. Grazie mille. Grazie dell'invito e grazie di esserci. Come diciamo, la ricerca è stata è stato un po' l'intreccio di due o tre esperienze di lavoro alla fine. La prima è quella che dicevi, in un'associazione dove avevo cominciato come volontario e poi ho lavorato per diversi anni. Era, qualcuno di voi forse lo conosce, il Comitato Inquilini Molise Calvairate Ponti, che è un comitato storico di abitanti delle case popolari di Milano, che sta sul giro della 90. Insomma, è un comitato che è stato fondato nel 79 da un gruppo di abitanti e che è nato sulla questione delle condizioni di vita nei quartieri Aler, in quei tre quartieri innanzitutto, due Aler e uno del comune, e poi via via, diciamo, nel rapporto con gli abitanti ha costruito una serie di spazi di relazione, di attività dopo scuola, corsi di italiano, una serie di attività, diciamo, di relazione, di assistenza, di proposta culturale, e quella, diciamo, per me è stata l'esperienza più formativa. Più formativa e quella da cui, diciamo, in qualche modo è nata anche poi l'idea di fare la ricerca una volta che ho cominciato il dottorato. Io lì, diciamo, il passaggio è anche un po', diciamo, proprio nella storia che racconta il libro. Cioè, a un certo punto io coordinavo un progetto finanziato da Fondazione Cariplo, un progetto di coesione sociale, diciamo, che era nato in risposta a un bando di coesione sociale che è stata a cavallo fra gli anni 2000 e 2010, è stata per 4-5 anni la parola d'ordine di Cariplo, che poi è stata assunta dal Comune di Milano, perché il Comune di Milano, che prima non ce l'aveva, dopo i progetti di coesione sociale di Cariplo, ha fatto un assessorato alla coesione sociale, anzi alla sicurezza e coesione sociale, che esiste ancora, quello in cui è stato mandato l'ex capo della polizia come consulente qualche mese fa ad affiancare l'assessore Granelli. Quindi, diciamo, è un concetto che nessuno nel lavoro sociale usava e che a un certo punto, diciamo, dopo i primi bandi di Cariplo, che ci ha messo diversi milioni perché ha finanziato qualche decina di progetti, Cariplo finanzia progetti in un territorio che è la Lombardia più le province di Novara e un altro pezzo, Val d'Ossola, un pezzettino di Piemonte, insomma fra Lombardia e Piemonte, perché ogni fondazione bancaria ha il suo territorio, diciamo, di elezione, di riferimento, in cui è vincolata a dare finanziamenti. Insomma, a un certo punto questa parola coesione sociale diventa la parola che tutti usano, secondo il meccanismo che poi c'è stato per l'innovazione sociale, per il welfare di comunità, per tutta una serie di parole che sono state, diciamo, formule che sono state lanciate di fatto dai bandi di Fondazione Cariplo, e che concedendo su quelle parole d'ordine, sulle progettazioni, diciamo, che fossero orientate da quei principi, una importante quantità di soldi e anche progetti che spesso avevano durata di 2 o 3 anni, che è una cosa molto rara e quindi molto preziosa per le associazioni e le cooperative di terzo settore, che invece lavorano spesso su progetti annuali o addirittura, diciamo, a volte che coprono alcuni mesi fissi nell'anno. È una grande, insomma, è stata una grande risorsa in termini di poter programmare il lavoro con un po' di respiro. Diciamo, appunto, io lavoravo in un progetto così, una caratteristica di quei progetti, di quei bandi, era di chiedere ai progetti di trovare un cofinanziamento abbastanza importante, cioè diceva: voi ci presentate un progetto con il budget totale, poi noi finanziamo fra il 60 e il 70% di quel costo, il resto lo dovete trovare da altri finanziatori. Che era una cosa che, diciamo, con percentuali variabili poi continuato ad esserci. Lì era stato forse uno dei primi dei bandi in cui per la prima volta questa cosa diventava importante. E lo dico perché poi magari, appunto, torniamo su questa questione, però diciamo, era una scelta che era anche molto impegnativa per le organizzazioni, perché su un bando, su un progetto di 3 anni che costa, non so, 400.000 euro, trovare il 30-40% vuol dire trovare parecchi soldi. Per organizzazioni che magari non avevano questa platea di finanziatori così, così variegata. Però questa era una delle cose importanti di quel progetto, cioè Fondazione Cariplo diceva alle organizzazioni che partecipavano al bando: voi non dovete dipendere da noi, no. Noi siamo un pezzo, voi dovete essere in grado, nel grande mondo dei finanziamenti pubblici e privati, di essere autonomi dalla fondazione. E se presentate un progetto il primo anno, non lo potete presentare al bando successivo, perché appunto noi non vogliamo organizzazioni che dipendano in modo troppo marcato da noi. Fatto sta che nel progetto in cui, adesso tutto questo per dire, nel progetto in cui io lavoravo, sto cofinanziamento non l'abbiamo trovato, cioè ne abbiamo trovato solo una parte, e quindi diciamo, abbiamo avuto l'esperienza di dover interrompere prima il progetto con una serie di complicazioni diciamo, finanziarie, anche perché nel frattempo avevamo avuto, insomma, dovevamo evitare di far sì che il contributo di Cariplo finisse per essere più del 70%, no? Cosa che rischiavamo non avendo il cofinanziamento. Beh, tutta una serie di cose. Questa esperienza, diciamo, di lavoro si conclude abbastanza bruscamente per me e per una decina di persone che lavoravano per il comitato. In quella situazione lì, per una serie, diciamo, un po' annusando la situazione, ognuno iniziava a cercare anche alternative. Io avevo collaborato un po' con l'università prima e ho provato un dottorato che poi io ho vinto all'università, insomma, ho avuto una borsa di dottorato all'Università di Torino. Cominciando il dottorato, il ragionamento, diciamo, le cose che io volevo fare era, da un lato, riguardare la mia esperienza di operatore con il distacco, la possibilità, insomma, di metterla in un contesto più largo, studiando, confrontandola con altre esperienze, eccetera. E dall'altro, la cosa che volevo, diciamo, dentro questa scelta di guardare il lavoro che avevo fatto, che avevamo fatto con un gruppo di diverse decine di persone, tra operatori pagati, volontari, gli inquilini che partecipavano alle attività, eccetera, era lavorare su una cosa che era stata un po' il nodo e che poi diciamo, ha portato verso la scelta di studiare questi esperti del welfare, e cioè il desiderio di dar conto, di approfondire una cosa, diciamo, semplice, però poco, diciamo, poco discussa, cioè il fatto che dentro questo fantastico mondo del welfare, dove tutti collaborano, pubblico e privato, gli operatori e gli abitanti, gli operatori e gli inquilini, In realtà ci sono, diciamo, come in qualunque contesto dove sta tanta gente, dei rapporti, degli squilibri di forza, dei rapporti di potere che tendono a non essere tanto rappresentati e discussi, no? Si tende un po', diciamo, a pensare che quello lì è l'ambito dove succedono delle cose belle, buone, a volte non ce la si fa perché non, così come si vorrebbe, perché non ci sono abbastanza risorse, però di base è, diciamo, il luogo della collaborazione, dell'impegno per uno scopo comune, per uno scopo nobile, eccetera. Diciamo, se questa è la spinta che poi porta tantissimi, la maggior parte probabilmente delle persone che ci lavorano, a lavorarci, almeno in una prima fase, però ci sono anche un sacco di, appunto, di diseguaglianze di forza, sia all'interno del mondo delle cooperative e delle associazioni, sia tra le cooperative, le associazioni e la politica, le politiche, sia rispetto alle fondazioni, no? È un mondo complicato, articolato, e diciamo i rapporti di forza che a me interessava di più approfondire erano quelli che non si presentavano come tali e continuano di fatto a non presentarsi come tali, ma che si giustificano come, diciamo, si giustificano sulla base di una diversa conoscenza, competenza degli attori che stanno in questi rapporti, per cui, diciamo, è fisiologico che ci sono gli operatori che fanno il lavoro di campo, ci sono i formatori, i valutatori. Poi sulla valutazione da lì, insomma, è stato un quindicennio in cui ogni anno si aggiungeva un tipo di valutazione diversa, ci sono i docenti universitari che fanno i convegni su questi temi, ci sono i funzionari delle fondazioni che ti chiedono conto di che cosa stai facendo per fartelo fare, ovviamente, diciamo, ciascuno, no, da un certo punto di vista, ciascuno dal suo punto di vista a fin di bene, cioè per far dare il suo contributo al sistema, ma in un sistema che ha delle caratteristiche che quindi diciamo, appunto, instaura o rafforza dei rapporti di forza tra i soggetti. Allora, la cosa che mi interessava era vedere questo, cioè in che modo questi rapporti di forza tra chi è riconosciuto come portatore di un sapere, di una conoscenza e chi no, o chi è riconosciuto come portatore di un sapere, di una conoscenza in qualche modo un po' meno validi, un po' meno generali, un po' meno, diciamo, significativi, come nasceva e come si strutturava quel rapporto, cioè che cosa faceva sì che a un certo punto alcuni formatori, alcuni esperti, alcuni consulenti diventassero dei punti di riferimento, quello che dicevano sulla città, sulle diseguaglianze, sul lavoro sociale, sulle periferie, su come lavorarci, pesava, e invece quello che dicevano altri soggetti, in particolare la componente, diciamo, che fa il lavoro di campo educativo, di assistenza, di animazione, eccetera, pesava molto meno. E diciamo, al tempo stesso, gli operatori stessi, le organizzazioni stesse tendevano a legittimare questa cosa, tendevano a qualificarsi, cercare la formazione sempre più avanzata, soprattutto la formazione che poteva permetter loro di rispondere meglio, in quel caso, ai bandi di coesione sociale, 2 anni dopo ai bandi di innovazione sociale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi l'idea era questa, cioè l'idea era, va bene, ritorno a studiare quello che facevo, diciamo, però lo faccio non parlando dei quartieri, non parlando degli abitanti dei quartieri popolari, ma parlando di chi di solito parla dei quartieri popolari. Quindi, diciamo, provare a spostare un po' il faro della ricerca su quei soggetti su cui di solito non si fa ricerca, perché si dà per buono che quello lì è il loro posto, no? Cioè chi di mestiere insegna, di mestiere fa il formatore, fa il consulente, eccetera, è normale che stia lì, non dà fastidio a nessuno, non si pensa che quella posizione deve cambiare, no? E invece, se c'è un quartiere che casca a pezzi, o se ci sono famiglie in difficoltà, bambini che vanno male a scuola, generazioni di famiglie, di generazione in generazione, che passano dagli stessi dopo scuola, quindicennio dopo quindicennio, e diciamo ci si conosce ormai, appunto, attraverso 2 o 3 generazioni, quello è la cosa da studiare, perché quello è il problema, no? Allora il tentativo della ricerca è stato quello di di mettere invece la luce su quegli altri, che nel frattempo erano anche, diciamo, più o meno i miei colleghi o comunque quelli che assomigliavano di più a me. Ecco, quindi ecco un po' la... il punto di partenza è stato questo. L'ho fatta un po' lunga, però così magari il resto va più veloce con questa premessa. E allora infatti salto a una domanda, salto una domanda che magari faccio alla fine, perché hai parlato subito, no, dei tuoi colleghi, e un dilemma che esce fuori nel libro è il seguente, cioè riguarda molto da vicino la politica dal basso in generale e quello che si cerca di fare per rispondere alle necessità degli ultimi. Ovvero stare dentro o fuori le stesse logiche e le dinamiche che delegittimano i valori della collettività, della solidarietà, della partecipazione, della risposta ai bisogni, nel momento in cui ci si rende conto che c'è un gruppo di cattivi che si è appropriato di questi termini per arricchirsi, per farsi bello e per togliere soldi al pubblico in un certo senso, no? Rendere quei soldi pubblici condizionati, dipendenti a una serie di criteri che loro stessi definiscono. Quindi il dilemma, magari probabilmente tuo e dei tuoi colleghi, è stato questo, cioè come poter mandare avanti il proprio lavoro consapevoli che non è facile né per forza possibile, proprio perché ci sono bisogni sociali che hanno bisogno di una risposta, distaccarsi totalmente dal sistema, dei bandi e dei loro promotori, non dal sistema capitalista nel suo diciamo, aspetto più macro, no? Quindi se ci fai uno o due esempi di alcune, siccome hai fatto diverse interviste insieme all'osservazione partecipata, no? Dei racconti che ti sono stati restituiti sull'esperienza, cioè su come stare dentro al mondo del terzo settore, consapevoli che si sta facendo un favore ai cattivi, insomma, cioè come fare. Se è uscito fuori questa cosa, in generale le impressioni che hanno avuto. Sì, dunque, vabbè, diciamo, io poi la ricerca vera e propria è stata su quattro progetti finanziati da questo tipo di bandi, no? In quattro diversi quartieri della città, con capofila, no? Cioè soggetto, diciamo, proponente che si prende tutta la responsabilità. Ho scoperto che è nato anche il verbo capofilare negli ultimi, non so se voi l'avete mai incrociato, un progetto capofilato da me, capofilato, quindi diciamo il capofila, colui che capofila, erano quattro organizzazioni anche abbastanza diverse tra loro, e l'idea era un po' di andare a vedere, no, nella varietà del terzo settore milanese, che rispecchia insomma una varietà di terzo settore più in generale. Quindi organizzazioni come quella dove lavoravo io, che aveva una matrice politica forte di partenza, quindi che si misurava con questo dilemma che dici tu, anche organizzazioni che avevano una matrice molto meno politica, che quindi non vivevano né il proprio lavoro come un compito politico, né il fatto di stare dentro un sistema pubblico-privato come un rischio di delegittimare l'intervento pubblico. Quindi già, diciamo... Sì, diciamo, già nella domanda c'è un po' di... cioè mi viene da fare questa precisazione, cioè non per tutte le realtà fare lavoro sociale vuol dire fare politica dal basso, no? Anzi, no, della parola politica c'è abbastanza... dalla parola politica c'è abbastanza l'urgenza, insomma, la prima mossa è non facciamo politica, no? Noi siamo dei professionisti, oppure siamo... diciamo, abbiamo questa missione perché abbiamo un'impronta religiosa che ci viene dalla nostra storia, dalla nostra organizzazione, no? Tantissimo terzo settore ha questa matrice. E poi anche chi dice, diciamo, chi lo interpreta come politica, diciamo, può interpretarlo in tanti modi diversi, no? Quindi c'è una grande varietà nelle organizzazioni e anche nelle persone, no? C'è chi ci investe quello, c'è chi ci investe il percorso di studi, il percorso professionale, c'è chi la sua identità è io sono l'educatore che ha studiato scienze educazione, lo psicologo, no? Diciamo più la formazione rimanda a una professione, no? Poi in genere più la professione ti porta a prendere una distanza dall'aspetto politico, no? Perché sembra che in qualche modo uno diminuisca l'altro, no? Cioè una questione insomma, classica, no? Non solo degli operatori, ma anche degli operatori sociali. E quindi i quattro progetti che ho visto, diciamo, si ponevano questa domanda in modo molto diverso. A me veniva in mente, siccome queste domande adesso, diciamo, Laura non solo le ha pensate, ma diciamo ci abbiamo un po' pensato insieme, poi lei me l'ha rielaborata e me l'ho preso qualche nota. Diciamo, idealmente, cioè, la cosa che io speravo, in qualche modo, no? Cioè, bisognerebbe fare la ricerca senza avere già delle aspettative così, però poi ognuno arriva con un percorso suo, con una domanda, con l'interesse anche a vedere se in certe cose effettivamente che lui si immagina si trovano nel mondo di fuori da lui oppure no. Quindi, diciamo, un primo schema un po' semplificato potrebbe essere: io voglio studiare gli esperti, voglio un po' criticare il loro punto di vista, il loro posizionamento, mi trovo un soggetto alternativo che, diciamo così, un po' semplificando, gli esperti sono quelli che in realtà abusano del loro potere, ci sono gli operatori sociali poverini che invece avrebbero un sacco da dire e sono schiacciati da questi esperti e consulenti che ovviamente la cosa poi non era tanto così, cioè appunto ci sono organizzazioni di terzo settore e operatori che nel fare ogni anno un progetto su una parola d'ordine diversa si trovano pure bene, no? O comunque riescono a darci un senso, oppure fanno come questo lavoro, come tanti altri, da così tanto tempo che anche se non c'è un senso, diciamo, è diventato il tuo lavoro, impari a, diciamo, a modulare, no? Cioè, è l'esperienza di... insomma, questa varietà di esperienza. Però le cose forse più interessanti sono che rispetto al fatto che questa parola, diciamo, questa parola che dovevo orientare il progetto, cioè coesione sociale, che viene da... qual era l'analisi principale? L'analisi principale che stava alla base del bando di Cariplo, anche se poi Cariplo nelle interviste, ma sempre, no, dice noi non avevamo una chiave di lettura tanto forte. Ci sembrava che questa parola potesse, no, in qualche modo mettere in moto delle energie, fare dei cambiamenti, cioè non rivendicano, pur facendo un bando che determina il modo di parlare di qualche migliaio di persone in città, perché poi gli operatori iniziano a dire io sono un operatore che fa coesione sociale. Il presidente della cooperativa inizia a dire ah, ma sai, cioè, noi non lo sapevamo, ma abbiamo sempre fatto proprio coesione sociale. I beneficiari, diciamo, destinatari delle attività, quelli un po' più attenti alla lingua che parlano i loro educatori o alle lingue che, insomma, alle parole che girano negli spazi che frequentano, iniziano ad usarla. Cioè, ognuno poi gli dà un significato diverso, no? Però inizia a diventare una lingua. Pensate appunto adesso negli anni più vicini, welfare di comunità, la povertà educativa, no? Sono tutte parole che vengono da bandi, tendenzialmente di fondazioni private, e che diventano, diciamo, no, poi gli operatori, cioè questa vita, insomma, il lavoro straborda nella vita, quindi ti trovi pure a tavola che parli della povertà educativa con gli amici o in famiglia, no? Però sono tutte parole che fino a 2 anni prima nessuno aveva usato e su cui non c'è tanto il tempo spesso di soffermarsi. Cioè, si trova una traduzione pratica, dice va bene, adesso per me quella roba è fare dopo scuola in un modo un po' diverso, oppure non fare più il dopo scuola ma fare il gruppo di formazione dei genitori piuttosto che altro tipo di attività, però ecco, resta un po' così. Allora, da parte degli operatori io avevo trovato tante domande su che cosa voleva effettivamente dire, no? E anche tanti dubbi rispetto all'impostazione del progetto, che progetto esce il bando da 400.000 euro, la cooperativa lo fa, poi si capisce che cos'è veramente, cosa ci possiamo mettere dentro, no? Funziona così. E che cosa era diciamo, il punto, l'analisi fondamentale, il presupposto fondamentale di questi progetti di coesione era: il problema nei quartieri popolari è che c'è una carenza di coesione tra gli abitanti. Grazie. Perfetto. Grazie mille. La chitarra. No, infatti sono rilassatissimo. Questa era una roba effettivamente, grazie mille, nuova. Cioè, era di dire: non dovete più produrre servizi per rispondere dei bisogni codificati, il bambino che va male a scuola, il genitore che non ha un lavoro, la casa che cade a pezzi, ragazzini che finiscono nel giro di spaccio di zona. Non è su questo livello che dobbiamo lavorare. Non dovete fare servizi, questo diceva il bando sostanzialmente, ma dovete favorire lo sviluppo delle relazioni tra le persone che abitano in quelle zone. Perché il problema, insomma, il problema su cui adesso è urgente lavorare è questo: la carenza di relazioni, la carenza di coesione all'interno dei quartieri. E quindi, diciamo, tutti gli operatori erano un po' nella posizione che dicevano: vabbè, allora abbiamo 50.000 euro in più all'anno, prendiamo un altro educatore, facciamo 2 giorni in più di dopo scuola. Poi dicevano: no, non devo fare un servizio in cui è chiaro qual è il bisogno e qual è la mia competenza. Devo creare dei gruppi, far invitare le persone a partecipare a un gruppo d'acquisto, devo, diciamo, creare occasioni di socialità sostanzialmente in un quartiere popolare, il cui principale problema nell'analisi del bando è che le persone non si conoscono abbastanza, giovani e vecchi, italiani e stranieri, tutta una serie di fratture che sicuramente, diciamo, in qualche misura, io poi non, diciamo, si capisce da come parlo probabilmente che cosa penso, ma non mi interessava tanto vedere se questa cosa era vera o no, no, mi interessava capire come si spingevano le persone che fino a un momento prima avevano fatto altro a lavorare in quel senso, no? E che cosa succedeva, come le persone vivevano questo cambiamento, gli operatori, le operatrici soprattutto, perché la maggior parte erano donne. E su questo c'erano dei dubbi, perché erano quartieri, era il 2012, gli anni subito dopo la crisi finanziaria globale, diciamo, i bisogni, oltre ai bisogni di relazione, i bisogni materiali, diciamo, riemergevano come molto pressanti, no? Mancanza di lavoro, mala gestione ALER, che ha una storia trentennale, che quindi poi, rispetto proprio alle condizioni fisiche dei quartieri, no, cioè, diciamo, la battuta, che è un po' riduttiva, però dice anche la contraddizione, era: sì, vabbè, io vengo anche a vedere il film tutti assieme, però se poi quando torno a casa, la mia casa casca a pezzi, non è che sono tanto, cioè preferirei che fosse presa in carico anche quella cosa lì, no? E invece tutto il gioco del progetto, il linguaggio del progetto era: non stiamo sui bisogni, no? Usciamo, che ha il suo lato interessante, no? Cioè, la focalizzazione sui bisogni sicuramente nel welfare è un problema, dall'altro lato anche tagliar fuori quella parte è un problema. Quindi questo qua era un po' il nodo, no? Su cui tutti gli operatori si misuravano. Non lavorare sui bisogni, non sto dicendo cosa dicono gli operatori, ma adesso poi lo dico, giuro. Cioè, mi serve per spiegare che cosa dicevano, no? Quindi, coesione sociale, nuovi esperti, ecco, questo non è, diciamo, ovviamente, corsi di formazione su cos'è la coesione sociale, ogni progetto aveva il formatore, il valutatore, che doveva aiutarti a capire che cosa voleva dire per te coesione sociale in quel territorio, coesione sociale, numeri speciali di riviste accademiche dedicate a numeri di animazione sociale, di vita, di tutta, diciamo, la pubblicistica di settore che, diciamo, cerca di alimentare da un lato e precisare un po' che cosa è questa nuova parola. Sganciarsi dai bisogni puntare sulle relazioni, sul benessere, diciamo, all'estremo, c'era anche un po' questo tipo di discorso. Per le cooperative che sono in una fase di, diciamo, si devono misurare con un taglio molto forte dei finanziamenti pubblici e con una diminuzione anche dei finanziamenti privati, perché questa è una roba che viene detta poco, ma le fondazioni bancarie, poi di origine bancaria, poi se ne parliamo un po' si capisce meglio perché, negli anni duri della crisi hanno dimezzato le loro erogazioni. Se voi guardate tipo il bilancio sociale di questi ultimi anni di Cariplo, parte sempre dal 2014 a far vedere le erogazioni. E dice, negli ultimi 10 anni più o meno, no, è stato stabile, più o meno le fondazioni di origine bancaria a livello nazionale hanno distribuito tipo 900 milioni l'anno circa, da 10 anni fisso. Se tu vai 5 anni indietro, vedi che prima del 2007 ne distribuivano 1,7 miliardi, 1,8 miliardi, quindi hanno... nel giro di pochi anni dimezzato anche loro il contributo. Questa è una cosa che in genere non viene tanto richiamata, no? Perché non è nell'interesse delle fondazioni far sapere che hanno dimezzato il loro coso. E anche dal punto di vista critico, no? Si tende a dire c'è meno finanziamento pubblico, c'è più finanziamento privato, no? Le fondazioni aumentano. In realtà le fondazioni non hanno aumentato per niente, proprio hanno dimezzato, se voi prendete rispetto al 2007, cosa sono? 6, 7, sono 15 anni, 18 anni, quindi comunque se la vedete non nell'ultimo decennio ma nell'ultimo ventennio le risorse delle fondazioni si sono dimezzate, le fondazioni di origine bancaria, di cui Cariplo fa parte. Quindi in questo contesto per le cooperative non lavorare più solo sui bisogni voleva anche dire... tastare un po' il terreno rispetto alla possibilità di costruirsi un mercato privato di servizi. Cioè dire, se noi prima avevamo l'80% del nostro budget veniva da esternalizzazioni, appalti, convenzioni, eccetera, con il pubblico, e questi soldi sono molto diminuiti, perché il pubblico non c'ha più questi soldi, per tutto, insomma, ovviamente per delle scelte, eccetera. Come possiamo fare a rimediare? Una possibile soluzione è smettere di pensarci come le cooperative, uso le parole di alcuni degli intervistati, che lavorano solo con gli sfigati, ma potremmo essere un soggetto che, siccome non lavora più sui bisogni, siccome impara a fare coesione sociale, a costruire relazioni, a fare proposte culturali, eventi, eccetera, potremmo anche pensare che una parte dei soldi che non becchiamo più dal lato pubblico lo becchiamo dal lato privato, cioè le famiglie, apriamo i doposcuola, non saranno più solo i doposcuola per i bambini delle case popolari che ci vengono coperti dal pubblico, ma pure le famiglie di classe media, medio impoverito, medio non impoverito, hanno dei figli che magari hanno bisogno di supporto scolastico. Se organizziamo eventi culturali, possiamo attirare e stare in rapporto con tutto un pezzo della popolazione della città che, lavorando solo sulla dimensione, diciamo, di servizi di assistenza, non incontreremmo. E quella parte di popolazione, per partecipare ai nostri eventi o ai nostri corsi, eccetera, può pagare. E se noi riusciamo a recuperare da quel pezzetto pagante un pezzo di quello che non ci arriva più dal pubblico, forse riusciamo a stare in piedi, diciamo. Sono stati anni in cui molte cooperative hanno chiuso, molte cooperative sono state assorbite da cooperative più grandi, cioè era una roba seria, era una domanda molto seria e urgente capire come tenere in piedi le cooperative. E questa è stata una delle soluzioni, diciamo, su cui hanno ragionato molto, hanno sperimentato. Allora, questo qua per me era un nodo che è emerso in diverse interviste, cioè, ma noi cosa stiamo diventando? Adesso dobbiamo metterci a fare l'animazione, gli eventi per le famiglie bene, frequentano l'oratorio nel pezzo, insomma, al di là della strada, delle case popolari, perché così intercettiamo un altro pezzo di soldi? Dobbiamo cambiare la proposta che facciamo alle famiglie, diminuire le ore di doposcuola? Perché lavora troppo sui bisogni e noi dobbiamo lavorare di più sulle relazioni? Cioè, c'era questa domanda, no? E anche una domanda con un'inquietudine, cioè, che poi uno può dire, in tutti i processi di cambiamento ci sono delle resistenze, non tutte le resistenze sono diciamo, esprimono il meglio di noi, no? Magari può essere anche una resistenza così, perché sei abituato a fare una roba e vuoi continuare a fare quella che già facevi, e invece avrebbe un senso cambiare. Comunque, diciamo, non era un processo liscio, no? Tanti operatori e operatrici avevano tante domande su quello che stava succedendo. Più domande che risposte, cioè erano processi dentro cui si trovavano e si chiedevano come starci. Tutto questo mi permette di leggervi lo stralcio, secondo me più bello di quelli raccolti, che viene dall'intervista con un operatore che si misura esattamente con questa questione. No? La sua cooperativa fa parte di un consorzio. Questo consorzio, il cui rappresentanti io anche avevo intervistato, era molto proiettato su questo lato che vi dicevo, cioè sganciamoci, con tutta un'elaborazione, avevano chiamato dei consulenti che gli avevano fatto un piano di sviluppo delle cooperative, che diceva: se voi vi spostate da rivolgervi solo alla parte più povera, che viene attraverso, diciamo, contributi pubblici, ad altro, potete sviluppare un nuovo modello di intervento, un nuovo modello di sostenibilità economica. Diciamo, come vi dicevo, no? Era un tema per le cooperative, e soprattutto i consorzi, le centrali cooperative ci ragionavano su questo e poi riportavano, dicevano: va bene, allora proviamo questa linea, così, no? Funziona. La centrale, il consorzio dice: abbiamo capito che questa può essere una strategia di sviluppo delle cooperative. Chiami le cooperative e dici: chi ha progettazioni che potrebbero andare in questa direzione? Coesione sociale, Cariplo, era una delle progettazioni che poteva anche, diciamo, che risuonava un po' con questo discorso, no? Cioè potevano unirsi questo discorso, da un lato la condizione di bisogno delle cooperative, dall'altra l'enfasi su non creare servizi ma lavorare sulle relazioni, gli eventi, l'aggregazione, eccetera. Questa era un po' la cosa. Una di queste cooperative che avevo, insomma, con i cui operatori e operatrici avevo fatto diverse interviste, stava in questa situazione, cioè il consorzio aveva scritto un progetto per il bando Cariplo costruito secondo questa logica, no? Cioè che, quindi chi lavora nel settore o scrive progetti sa come sono fatti, no, i bandi, analisi del bisogno, analisi del contesto, perché questo progetto va proprio bene per quella zona, che cosa, che cambiamento ti aspetti di ottenere, eccetera, eccetera. E il progetto era scritto secondo quel copione, no? Quindi è un quartiere dove ci sono un sacco di bisogni inespressi, non ci sono solo i bisogni delle case popolari, ma ci sono molti altri abitanti che potrebbero apprezzare interventi di aggregazione, di socialità, proposta culturale, insomma, tutto un quadro finalizzato a stare dentro questo schema, no? Però, appunto, dicevo, il terzo settore sappiamo che è molto composito anche dentro i consorzi, sia dentro le singole cooperative, a maggior ragione dentro i consorzi, ci sono sensibilità molto diverse, idee molto diverse di come stare in questi processi, no? E allora, lo stralcio che vi leggo è questo qui, è di un operatore che vive, diciamo, a proposito di rapporti di forza, vive il fatto che lui aveva in mente un progetto, ma la cooperativa, diciamo, il consorzio è arrivato dalla cooperativa e ha detto: questo è il bando buono per provare a sperimentare questa nuova cosa. E, diciamo, e lui reagisce così. Dopo tutto quel lavoro che abbiamo fatto, dal 2001, racconta tutta una serie di progetti che avevano fatto prima, sono arrivati quelli della cooperativa scelta dal consorzio come capofila e quelli della società di consulenza e mi si sono presentati con un progetto che non c'entrava niente col mio quartiere. Questo, diciamo, uno degli educatori che lavorano da 30 anni lì, diciamo, un'identificazione fortissima e una visione politica del suo lavoro, no? Un progetto che non c'entrava niente col mio quartiere, che non è veramente il quartiere dove lui vive, però, diciamo, è il suo. Era una cosa in cui i bisogni reali del quartiere non esistevano. Hanno raccontato un quartiere che non c'è, fatto di gente interessata a partecipare a una proposta culturale, gente che non aveva bisogni basilari, non erano i più disgraziati, i tamari e le vecchiette. Poi hanno progettato delle azioni che rispondevano a quel bisogno e hanno scritto il progetto. Ma l'analisi era viziata dall'obiettivo cui da subito volevano arrivare, cioè un progetto di coesione sociale inteso come un progetto rivolto alle fasce meno in difficoltà. C'erano solo progetti di attività culturali per i giovani fighetti, i giovani dell'oratorio del quartiere per bene qui accanto, sostanzialmente. Non era una chiave nuova per intervenire su problemi reali, ma proprio un modo per abbandonare la gente bisognosa con cui invece noi volevamo potenziare il lavoro. Adesso arriva la parte più divertente. Io gli ho detto, quella roba lì, quel progetto, lo prendi e lo metti via. Lo prendi e lo metti via. Gli ho detto, guarda, piuttosto noi non facciamo niente, ci perdiamo. Ma io vado alla fondazione e questo progetto te lo sputtano davanti a tutti. Ne ho parlato con gente del consorzio, anche che mi ha detto, ma no, l'idea è che noi apriamo una struttura e vediamo cosa produce il territorio. E lui dice, il territorio, vabbè, aria fritta, ho scritto aria fritta, lui non aveva detto proprio aria fritta, diciamo, comunque no, c'è stato un addolcimento, forse a posteriori non lo, insomma, avrei lasciato cazzate, che era quello che aveva detto veramente nell'intervista. E, quindi diciamo, questo era lo stralcio più conflittuale, no? Chiarissimo, dove c'è effettivamente questo conflitto tra la visione di un operatore che lavora su un territorio da molti anni e la visione dei consulenti chiamati dal consorzio, che ragionavano secondo altre logiche, no? Lui poi nell'intervista dice, nella discussione una di loro mi ha detto, vabbè, ma è come quando chiami l'avvocato, cioè i consulenti, diciamo, i progettisti sono come quando chiami l'avvocato, cioè tu gli dici che cosa, qual è il tuo interesse e loro, diciamo, ci mettono il timbro sopra del professionista, no? Quindi siccome l'interesse del consorzio era esplorare quel territorio che vi dicevo, il progetto è andato in quel senso. Il progetto poi non è andato in quel senso, insomma, è stato rinegoziato, la persona intervistata è riuscita a far passare alcune degli approcci che proponevano, che comunque creavano delle tensioni, perché comunque anche loro in un modo diverso coglievano questa cosa, anche loro, dico, questa cooperativa, questo operatore e diciamo chi la pensava come lui, coglieva l'idea di non voler lavorare, per esempio, sulla questione della casa, perché diceva sulla casa, cioè se tu vai in qualunque quartiere, in qualunque cortile del quartiere di case popolari e chiedi a una persona qual è, su cosa bisognerebbe fare un progetto, ti dicono sul fatto che i palazzi cadono a pezzi, non c'è il custode, le cantine sono vandalizzate, le case hanno le macchie di infiltrazione, mio figlio c'ha l'asma da quando ha 3 anni, no? Diciamo, questa è la prima cosa su cui, diciamo, una progettazione realmente partecipata porterebbe, diciamo, sul tavolo. Loro stessi però dicevano, dal punto di vista di operatori, dicevano, noi però su questo non abbiamo delle chiavi per intervenire, quindi se noi puntiamo tutto il progetto su una roba su cui non abbiamo chiavi, che non abbiamo chiavi per risolvere, finisce che il progetto non funziona, no? Anche le persone noi le, diciamo, chiamiamo a partecipare a una roba su cui non siamo capaci, non siamo un sindacato inquilini, siamo una cooperativa storica, battagliera, però dobbiamo anche portare a mantenere dei rapporti civili col comune, perché poi una parte dei nostri soldi vengono da lì, non siamo un soggetto politico, non siamo un sindacato, non siamo un partito, non siamo un movimento, siamo una cooperativa sociale che ha 40 dipendenti, ecco, i 40 dipendenti deve garantire che i soldi per il loro stipendio entrino, no? Che questo, diciamo, è comunque punto di partenza per cooperative, per enti del settore un po' strutturati, cioè sono legittimamente soggetti economici. Secondo me il problema è quando si autorappresentano o qualcuno gli attribuisce di essere una roba che non sono, cioè un movimento politico o un soggetto che rappresenta un territorio, perché questo qua è un grande equivoco secondo me sul terzo settore. Cioè, il terzo settore è legittimamente un'impresa con un grado variabile, diciamo, di sensibilità, di ingaggio politico con il territorio, variabilissimo, no? Però il grande equivoco è quando loro si prendono il ruolo o qualcuno gli dà il ruolo di rappresentare un territorio o una popolazione, perché loro non hanno nessun compito di rappresentanza e non lavorano come un ente di come un organismo di rappresentanza, cioè loro mettono in primo piano, appunto, da un certo punto di vista legittimamente, la loro necessità di stare in piedi. Però su questo c'è un grossissimo equivoco. Cioè, diciamo, a cui diversi soggetti, spesso il terzo settore stesso, ha anche interesse a tenere in piedi, no? Perché comunque ti legittima, no? Dici, io non parlo per il mio interesse, parlo per il quartiere, parlo per i poveri della città, parlo per... Però, ecco, c'è un pezzo che... Quindi, vabbè, questo era l'esempio più estremo, diciamo, di conflitto. Forse parlare di coesione sociale in questo modo, cioè le fondazioni hanno aumentato questo senso che il terzo settore rappresenta i territori, o no, secondo te? Cioè questo era molto... Se in qualche modo le fondazioni non hanno con questo linguaggio diverso... Secondo me più che sulla rappresentanza lì, questo credo sia un discorso forse un po' meno forte, però lì era molto, cioè c'era molto un discorso, diciamo, di pedagogia, no? Cioè le fondazioni bancarie un po' educavano il terzo settore a non fare solo servizi, e il terzo settore doveva educare gli abitanti dei quartieri dove lavorava che dovevano darsi una sbrigata da soli, no? Cioè che servizi non se ne aprivano più, che loro dovevano sviluppare il loro capitale sociale, relazionale, umano. C'erano tantissime cose tendenzialmente fallite sul famoso incontro domanda-offerta, laboratori per scrivere i curriculum, cioè mentre il mondo cadeva a pezzi praticamente, a Giambellino, a Molise Calvairate c'era un laboratorio che sicuramente avrebbe fatto trovare lavoro perché gli insegnavi a scrivere il curriculum, no? Però no, con questa retorica non ti do un servizio ma ti insegno come tu puoi renderti autonomo, no? Che è un discorso che è ancora molto, diciamo, sotto nuove vesti, no? Però è abbastanza... Anche molto imprenditoriale, cioè l'idea dell'imprenditore di sé, no? Cioè tu cittadino sei l'imprenditore di te stesso. Era, diciamo, c'era una simmetria, uno specchio tra quello che dovevano fare le cooperative, cioè essere più autonome dal finanziamento pubblico, e quello che dovevano fare i beneficiari, cioè essere più autonomi dalle cooperative, no? Cioè questo qui era l'imperativo, era vecchio welfare è finito, no, le vacche grasse, gli anni delle vacche grasse sono finite, bisogna che ciascuno s'arrangi, le cooperative devono trovarsi un mercato privato, la gente che abita deve far conto che servizi ce ne saranno sempre meno, quindi devono mettersi in grado di... E soprattutto, questa era l'altra cosa proprio pedagogica, che in con un approccio pedagogico era basta lamentarsi, no? Appunto, cioè, si sposava con il darsi da fare, no? Basta lamentarsi, non ci sono tanti soldi, è vero, i servizi, la casa cade a pezzi, è vero, però non stiamo su questa dimensione che sarebbe quella, diciamo, che è anche più... potenziale politico, no? Perché ti mette di fronte al fatto che c'è un cambiamento necessario, che non sta nel progetto, no? Cioè che non si risolverà con l'azione della cooperativa finanziata dalla Fondazione Carico, rimanda a un altro piano. Allora quella roba lì era la cosa da evitare, no? Era il vecchio modello dell'associazione, il vecchio modello della cooperativa, il vecchio modello dell'abitare nei quartieri popolari, che doveva essere superato in chiave, sì, imprenditoriale in senso lato, no? Magari non per forza aprendoti la partita IVA, però comunque, diciamo, dandoti da fare, attivandoti, allargando il tuo giro, eccetera. Certo. Un po' censurando i bisogni in questi bandi, mano a mano. Sì, questa cosa... Vorrei sapere se qualcuno ha una domanda, qualcuno o qualcuna, perché abbiamo una ventina di minuti massimo rimasti, e prima di continuare io a fare un'ultima domanda vorrei sapere se ci sono domande. Sto caricando, ma vai avanti tu. Ok, stai caricando, va bene. E la domanda che volevo farti io era per connettere i puntini rispetto a tutte le cose che stiamo raccontando, cioè che ci stai raccontando. Quindi da un lato le fondazioni sembrano essere questi nuovi attori fortissimi che sono riusciti nel loro intento di ripulire un po' ripulire è una brutta parola, perdonatemi, di neutralizzare la conflittualità e i bisogni reali, di riarticolarli in modi diversi e di allontanare realmente il lavoro degli operatori sociali da quello che era tradizionalmente. Mm-hmm. Dall'altro però tu spieghi anche che effettivamente questi esperti dipendono totalmente dalle cooperative, nel senso il loro potere è tale solo perché ci sono cooperative che hanno bisogno di scrivere, rispondere a questi bandi, no? Quindi mm-hmm. la subalternità di queste cooperative, già ci hai spiegato che non per forza tutte le cooperative dicono ah vabbè questo è un problema, è ok, però dall'altro lato appunto come diceva, come spieghi, no? Il potere di questi esperti proprio perché si basa un po' su questi concetti un po' aleatori a volte, di riuscire a ridefinire in termini molto ampi quelli che prima erano bisogni molto specifici, domande molto specifiche, loro dipendono molto dalle cooperative e dal bisogno di finanziamento. Quindi la domanda che avevo scritto meglio di come la dico, come, siccome loro fanno tutta l'enfasi sulla valutazione, mm-hmm. e tu sai che io amo parlare di valutazione, però non è questo il punto mm-hmm. è, siccome loro hanno effettivamente trovato legittimità nella capacità di definire criteri, obiettivi, eccetera, chi è che valuta loro? Come funziona il fatto di valutare effettivamente o rendere loro responsabili, rendere le fondazioni responsabili del lavoro che riescono o non riescono a fare, o del fatto che non stanno riuscendo questi bandi a rispondere ai bisogni, per come sono scritti in partenza. Mm-hmm. E su questo sì, 5 okay. minuti, che poi abbiamo un altro massimo. Sì, diciamo, lì c'era questo schema che poi è cambiato, no? Comunque lo schema era la fondazione chiede alle partnership, ai gruppi di progetto di avere un valutatore dall'inizio. Questo valutatore possibilmente li aiuta già nella fase di scrittura del progetto. Il primo bando addirittura aveva uno studio di fattibilità, avevi un anno per vedere se quello che avevi scritto era effettivamente sensato. Quindi ti scrive il progetto, ti scrive il piano, scrive insieme a te, insomma, a seconda, il piano di valutazione, e poi ti fa la valutazione del progetto, no? In questo sistema qui, sostanzialmente la critica che anche alcuni valutatori facevano è: nessuno ha interesse a dire che una cosa non ha funzionato, perché il valutatore ha scritto il progetto, ha fatto il piano di valutazione, fa la valutazione. Se il progetto è andato male è anche colpa sua. La fondazione ha speso milioni di euro per questi progetti, non ha grande piacere a dire che quei milioni di euro sono stati sostanzialmente usati in modo non efficace e che lei non è riuscita a farlo. La cooperativa tantomeno, perché fra 2 anni o nello stesso anno deve rispondere anche a un altro bando della stessa fondazione e non ha nessun interesse a mettersi in luce come quella che ha preso soldi per fare una roba che non è andata bene. Quindi sostanzialmente c'è questo paradosso che da un lato tu insisti sul fatto che deve essere un lavoro scientifico, valutato, eccetera. Dall'altro in realtà crei un sistema di incentivi per tutti gli attori per dire che tutto è andato bene, qualunque cosa sia realmente successa, no? Quel modello lì adesso aveva tutti questi problemi. Il modello che si affaccia è un modello in cui il valutatore è più legato alla fondazione, quello per esempio anche dei bandi QBI, chi lavora, insomma, che è l'altra, insomma, grande cosa sulla povertà minorile finanziato da Carico negli ultimi anni. Lì c'è un legame più forte tra fondazione e valutatore. Fondazione, sceglie chi seguirà il progetto, chi lo segue, in qualche modo lo tiene anche sulla linea che è stata condivisa con la fondazione, ovviamente in modo molto, partecipativo, dolce, eccetera. Però ha anche quel ruolo lì, tutelare la il progetto della fondazione. che è un progetto, diciamo che è uno schema nuovo che ha ugualmente i suoi guai, cioè da un certo punto di vista, io devo dire su questo, dal punto di vista di che cosa mi sembra meglio, non so dove tagliare il nodo, no? Cioè non so se è meglio che poi la fondazione non abbia tutto sto controllo veramente e che le cose si aggiustino un po' facendo, o se è meglio che ci sia un valutatore esterno che viene, diciamo, e orienta e bacchetta il lavoro. Però diciamo quello lì è un grosso tema, cioè chi valuta e che è uno poi delle cose, poi forse stiamo parlando più della, abbiamo parlato più del sistema delle politiche che, degli, che del ruolo degli esperti, ho parlato, però diciamo quello lì è ovviamente la domanda di fondo è chi diciamo in base, cioè diciamo così, qual è l'interesse di chi scrive i progetti e di chi li valuta a scriverli e a valutarli in un certo modo, no? Cioè a scriverli coerentemente con le spinte che vengono dalla fondazione, perché se diventi poi un progettista importante per un bando, lo diventerai anche per un altro, farei anche la valutazione, diciamo, è tutto anche un modo ovviamente come, ma ripeto, diciamo, da un certo punto di vista legittimamente, cioè sono dei lavori, tutti i lavori sono condizionati dal contesto in cui si svolgono, il problema è dimenticarsi questo pezzo, no? Cioè dimenticarsi che ci sono delle, delle condizioni che vincolano, no? Questo sapere esperto e lo orientano in un certo modo. Se ti dimentichi quello, poi allora non lo puoi mai contestare. Se hai in mente che quel concetto di coesione sociale nasce per rispondere a tutta una serie di cose di contesto, puoi anche dire io vorrei un'altra risposta, quindi vorrei un altro sapere, magari ugualmente articolato, ugualmente esperto, che però mi porti da un'altra parte. Certo. No? Un'altra classe di esperti. Sì, un'altra... altri, cioè, per dire, gli operatori come quello di cui vi ho letto il passaggio, innanzitutto hanno una conoscenza, una competenza profonda, e potrebbero costruire, in parte ci hanno anche provato anche dentro loro i progetti, no? A, certo, diciamo, appoggiarsi su altri esperti, altri consulenti, altri tipi di relazione con le popolazioni con cui lavorano, eccetera. C'è una domanda dal pubblico. Non arrivo. Grazie. Ah, io potevo parlare qui. Uno, ma infatti io l'ho ripreso. Recupero da qua. No, in realtà più che essere una domanda è una considerazione rispetto a, a quest'ultimo passaggio, nel senso che secondo me cioè la parte interessante di tutto questo discorso è anche un po' il sottotesto ideologico che è esattamente quello che sottende ognuna di queste logiche gerarchiche interne ed esterne al al contesto universitario, nel senso che quando si parla di terzo, cioè di servizi e in realtà di terzo settore, stiamo già parlando di un dispositivo in chiave estremamente neoliberal che in una qualche maniera dipende dalle fondazioni bancarie che organizzano i loro sistemi valutativi intorno a quelli che sono i loro come dire i loro linguaggi, che sono quelli degli outcomes nel breve termine, sono dei dati contabili, sono tutta una serie di diciamo sono tutta una serie di regole con cui i servizi imparano poi a convivere con dei mezzi trucchi, per cui iniziano ad imparare che al netto di quello che loro fanno poi bisognerà scrivere 70 da qualche parte e questo un sacco come dire di educatori e di lavoratori dei servizi lo sanno già fare, insomma, come dire, e quindi il punto di tutta, questa questione è che laddove, come dire, l'impianto ideologico continua ad essere questo, quindi nella sanità è questo, nei servizi educativi è questo, eccetera eccetera, e noi stiamo assistendo fondamentalmente ad una privatizzazione di ognuno di questi servizi che in alcuni casi oramai sono delle foglie di fico, nel senso che la parte sociale la devi fare in una qualche maniera e quindi anche senza profitto particolare la fai perché la metti lì dentro nel bilancio sociale. E quindi il punto è che anche se arrivassero dei valutatori esterni, che verosimilmente in quel caso potrebbero essere ministeriali, laddove la logica di fondo non cambia, rimane il problema e quindi la vera senza buttarla sempre sul socialismo reale, però voglio dire, cioè, quello che dovrebbe essere poi a un certo punto la nostra rivendicazione è, come dire, un recupero da parte del pubblico di ognuna di queste cose e della loro valutazione, ma soprattutto a quel punto ovviamente non una valutazione nei termini come dire più bancari del termine, bensì quelli che dovrebbero interessare come dire, una società, e quindi effettivamente il rilancio sociale, come dire, una coesione sociale a quel punto con un nuovo significato che potremmo anche definire interessante, come dire. Quindi questo non era esattamente una domanda, però mi sembra che alla fine poi il legame di sottofondo sia comunque molto legato a un certo tipo di modello sociale, ecco, insomma, che evidentemente a noi forse sta un po' stretto. Grazie. Ma anche se ci sono, cosa dici, magari possiamo raccogliere se c'è qualcun altro, così e poi riprendo dopo. No, allora semplicemente vedevo che nelle conclusioni tu parlavi di approccio costruttivista, e vorrei chiederti se hai voglia di spiegarlo, se non so, magari si entra in una spiegazione troppo grande, perché il cruccio rilevante per me almeno riguarda questo: una società sempre più complessa e con sempre più profondità e densità di nozioni da sapere, come può essere affrontata senza esperti? Perché nel momento in cui ci si mette in relazione con l'esperto, come dicevi prima, inizia a essere quel rapporto tra mandante e mandatario, cioè tu sei veicolo dei miei interessi, però non ti sto chiedendo di mettere un timbro, sto chiedendo di essere partecipi dei miei interessi, ma non, che non sono i tuoi, io mi sto affidando a te, allora dammi una mano. E in tutto questo poi c'è tutta la questione che riguarda, come si dice, se appunto una società che paradossalmente non è mai stata così piena di informazioni e della possibilità di recepire qualsiasi tipo di informazione in ogni istante tramite internet, siamo arrivati al punto in cui ci sono folle immense di persone che pesano soprattutto nelle performance elettorali degli stati, che rifiutano gli esperti, che dicono noi siamo il potere, ci temono, cioè sono tutte quelle cose che riguardano anche i pensieri del complotto, eccetera. Per cui, cioè, come si fa a creare o un rapporto corretto con gli esperti, oppure addirittura dire va bene, grazie, gli esperti li ascolteremo, leggeremo i loro libri, ma il sapere ce lo costruiamo in un'altra maniera. E non so se l'approccio costruttivista, o è possibile avere un certo tipo di rapporto con la conoscenza e con chi conosce, tale per cui non si finisce a doversi abbeverare alla fonte, grazie che mi hai salvato, meno male che ci sei tu che sei l'esperto, che è anche quello che ci hanno rimpiato, da monti in avanti è sempre stato quello, no? Grazie voi che sapete, che avete scelto per noi qual è il meglio, cioè decapitando completamente il concetto di democrazia, che è che lo decidiamo tutti assieme. Ecco, boh, se è possibile uscire da questa cosa, penso che seguono 5 ore di spiegazione, però magari però non so, se avevi qualcosa da aggiungere, perché cioè, se ho capito bene, il libro parla proprio di questo. Poi era per restare nel socialismo reale, cioè costruttivismo mi pareva fosse una corrente artistica, però ricordi del liceo. Grazie mille. E dunque, rispetto alla come ti chiami? Chiara. All'intervento di Chiara, sì, cioè io mi ritrovo, anzi grazie, diciamo che poi c'è stato un punto di ricaduta di tutto questo, di questo racconto della ricerca. Diciamo, mi viene da sottolineare due cose. Uno, quello che dicevi tu, cioè tu dicevi c'è anche un livello di, cioè c'è anche una discrepanza tra la forma e la sostanza, no? Cioè poi ogni progetto c'ha il suo apparato valutativo, ogni operatore, coordinatore di progetto c'ha il suo modo per cercare, diciamo, di orientarlo, piegarlo, imbrogliarlo a seconda della sono d'accordo, cioè, anche secondo me è così, si vede che è così, così come c'è una discrepanza tra le retoriche, cioè diciamo tra quella cosa che vi dicevo che si immaginavano di poter fare, cioè di aprire un mercato privato che compensasse il pubblico, e quello che poi è successo negli ultimi 10 anni a Milano. Cioè poi quel modello lì non ha avuto grande fortuna, nonostante sia stato il modello della riforma della giunta Pisapia, della riforma dei servizi della giunta Pisapia, che perché pezzetto che mancava, diciamo, per tornare, mi allontano un attimo, ma per tornare sul pezzo specifico milanese, quella logica lì che era un po' nell'area delle cooperative, era un po' nell'area del bando di coesione, è stata messa, diciamo, per certi aspetti a sistema, poi di nuovo con dei risultati molto limitati, dalla riforma dei servizi sociali del Comune di Milano del 2012, che era stata, diciamo, affidata dalla giunta Pisapia al Centro Studi per i Servizi Sociali della Bocconi, che era, diciamo, è diventato per qualche anno il faro delle politiche di welfare milanesi. Erano comunque gli anni di Monti, a proposito, no? Quindi c'era, diciamo, una linea PD Bocconi che andava molto sopra Milano, ma è stato, diciamo, è l'atto che ha indirizzato i 10 anni successivi di politiche sociali, che è stato scritto da un consulente, così, diciamo, chiudiamo il cerchio, questa storia a me piace sempre raccontarla, è stato scritto da un consulente che era appunto docente di economia aziendale della Bocconi, che qualche anno dopo è diventato il presidente di Fondazione Cariplo, quindi che, diciamo, ha attraversato un po' tutte le posizioni, no? Diciamo, da esperto dell'università privata, diciamo, Bocconi, insomma, sappiamo, era già consulente di Cariplo, è diventato presidente di Cariplo, e come presidente di Cariplo ha sviluppato una serie di partnership con il Comune di Milano, i cui servizi aveva riformato 3 anni prima. Quindi, diciamo, c'è anche questa dimensione di passaggi, no? di ricostruzione delle carriere tra pubblico e privato, dove tu dicevi recupero del pubblico, al tempo stesso appunto recupero del pubblico in una forma diversa da quella che anche il pubblico sempre più assume, no? Perché poi il dramma è anche questo, no? Cioè che c'è un appiattimento di modelli tra pubblico e privato, che fa sì che in questo momento il pubblico, adesso la più grande innovazione che pare succederà nei servizi sociali a Milano nei prossimi anni è che il Comune adotta il modello dei progetti Cariplo degli ultimi 5 anni, no? Il modello, sembra che il massimo che si possa fare è che il Comune fa quello che aveva fatto prima la Fondazione. Quindi, diciamo, c'è proprio una mancanza di fantasia anche, no? Al di là della valutazione di merito, cioè il fatto che tutti parlino la stessa lingua, propongano le stesse soluzioni, che sia indifferente essere consulente per il Comune o presidente di Cariplo, e tutto circoli in questo giro così stretto, diciamo, dice qualcosa di una mancanza di apertura di possibilità. E il tema, e ovviamente il tipo di valutazione che questi approcci tipo aziendale, diciamo, spingono maggiormente sono questi. Poi su questo, diciamo, le fondazioni si vantano sempre di essere, diciamo, ragionevoli, no? Cioè di dire vabbè, ma noi, diciamo, questa roba sì la proponiamo, però appunto poi non sappiamo neanche bene dirvi cosa vuol dire il titolo del bando che abbiamo proposto, diciamo dovete fare la valutazione, però non vogliamo fare una valutazione troppo stretta, diciamo c'è un po' un gioco tra l'orientare in modo netto e il tirarsi indietro con un misto di, diciamo, opportunismo, nel senso che poi non si prendono fino in fondo la responsabilità di quello che hanno fatto, non lo rivendicano fino in fondo, no? E dall'altro una cosa interessante delle interviste che avevo fatto a un valutatore, lui mi diceva, ma le fondazioni insistono tanto sulla valutazione, però, diciamo, di mestiere loro redistribuiscono risorse, cioè sono fatte per costruire buone relazioni tra i finanziatori e chi viene finanziato. E infatti lui mi diceva, se tu guardi qualunque bando della fondazione, da quello sull'agricoltura a quello sul welfare, vincono sempre le stesse grandi organizzazioni, no? Quindi allora non guardano che cosa veramente la gente sa fare, guardano chi sono. hanno, diciamo, il compito di, essendo questo mostro strano fra il pubblico e il privato, di oliare le relazioni dentro la città, e quello è il loro vero, diciamo, obiettivo, no? Per cui anche quando poi spingono molto sulla valutazione, dall'altro lato, insomma, con una mano sì e con l'altra no. Questo me lo diceva un consulente che lavorava molto dentro questo tipo di progetti. Quest'ultima cosa era per dire che la distanza tra retoriche e pratiche che tu dicevi sulla valutazione c'è anche su quel modello lì, cioè non volevo che poi quello che dicevo sulla questa fantasma del mercato privato diciamo facesse pensare che quella lì è stata la strada dominante, cioè è stata una strada battuta che è ancora un po' lì, però il comune ci ha messo soldi per fare piattaforme, convegni, per far sì che finalmente le badanti, la gente le assumesse attraverso la piattaforma del comune, dicendo il comune non deve più fornire tanto servizi, ma deve soprattutto mettere in contatto la domanda e l'offerta. Poi sta domanda e offerta, se diciamo, si è strutturato un mercato nero delle ripetizioni, delle babysitter, delle badanti, non emerge soprattutto in un momento in cui la gente non ha soldi per fare a questa gente che lavora contratti, non emerge perché il Comune di Milano fa una piattaforma o perché le cooperative vorrebbero aprirsi il mercato privato, no? Cioè un pochettino si è aperto, non so se qualcuno di voi ha esperienza di cooperative che hanno un pezzettino di servizi privati, ma è una roba che rimane, è rimasta molto più viva nella retorica che non veramente nelle pratiche, no? Non è chiusa, è sempre una retorica che viene rilanciata, però. E sulla questione di sulla seconda macro domanda, non lo so. Cioè, secondo me hai messo a fuoco, cioè hai detto molto bene i due, come dire, Scilla e Cariddi, no? Cioè, da un lato non vogliamo saperne niente degli esperti, primato della politica vuol dire che qualunque roba io dico che il presidente dice che sia vera, è vera, no? Questo è, diciamo, la deriva, no? Che dice rifiuto gli esperti, mi riapproprio del potere popolare, ma poi lo fa in una maniera autoritaria, ignorante, diciamo, che dove, diciamo, vengono legittimate tutti i rapporti di forza esistenti sulla base del fatto che la politica vuole così e quindi si fa così, no? Che è una, la conosciamo, insomma, è una tendenza, e dall'altro c'è gli esperti ci salveranno, no? In qualche modo, o l'immagine che aveva usato Draghi quando era ancora governatore della Banca Centrale Europea alla vigilia delle elezioni, in cui poi hanno non vinto i 5 Stelle nel 18, no, nel 13, gli dicono: ma Draghi, venite, l'Italia viene dal governo Monti, ci avete messo tanto per finalmente rimettervi in riga, adesso se vincono i populisti cosa succederà? E lui ha detto: non succederà niente, perché i meccanismi, la governance economica ha il pilota automatico, qualunque sia il governo che viene su, i criteri di governo della spesa sono stabiliti, diciamo, non spaventiamoci, urlano un po', no? Però non succederà niente di quello che... Cioè, stiamo proprio in mezzo a questa... E la via, mi sembra che la via in mezzo a queste due cose sia veramente strettissima. A me viene da pensare che la prima cosa è... Se la via è così stretta, la prima cosa è non farsi schiacciare, no, da questi due poli. E quindi, innanzitutto, tenere aperta la consapevolezza critica e anche, diciamo, costruendo delle reti di persone che con diverse competenze la possono sostenere sul fatto che qualunque conoscenza è discutibile, è contestabile, è il risultato anche non solo del rigore scientifico, quando c'è, ma anche dei rapporti sociali che stanno attorno a quella produzione. Cioè, questa roba qui mi sembra che sia la cosa in questo momento più preziosa da tenere viva. E quindi anche dimostrandolo praticamente, cioè anche dimostrando che sul welfare, a parte il Cerga Sbocconi, la Fondazione Cariplo e Pierfrancesco Maiorino, ci sono altre persone che hanno un'esperienza di quel mondo, hanno una visione di come potrebbe cambiare, hanno delle competenze tecniche o possono acquisirle per strutturare un modo diverso di far funzionare i servizi, cioè, diciamo, riappropriandoci, no? Senza arroganza, ma anche senza senso di inferiorità così castrante, riappropriandoci di quello che sappiamo e di quello che sappiamo di non sapere, però possiamo imparare, no? Quindi in questo senso, no? Cioè, tenere aperta quella possibilità, no? A rischio di, diciamo, sapendo che tenere aperta, diciamo, contestare i saperi egemonici, dominanti, espone al rischio, no, di essere subito messi nella categoria di quelli che non credono alla scienza economica, in questo caso a scienza economica, manageriale, eccetera. Però, diciamo, sappiamo che ci sono altri, no, altri modi possibili, altri mondi possibili, quindi mi sembra che questa cosa qui, cioè, non ho aggiunto forse niente alla domanda, se non che tra quelle due cose che tu hai nominato c'è una stradina stretta che secondo me parte da questo, cioè dalla... Sì, cioè da questo, cioè dalla consapevolezza di saperi alternativi che esistono, che non sono la panacea di per sé, che hanno bisogno di essere lavorati, precisati, sviluppati, ma che vengono dall'esperienza, dalla sensibilità, dalla conoscenza di molti di noi. Rispetto a ciascun settore, no? Nel welfare è nell'esperienza di tanti operatrici, operatori e di beneficiari dei servizi e di dirigenti dei servizi e di funzionari delle fondazioni che lavorano lì dentro ma sanno che sono metà delle cose che fanno non hanno senso. Il punto è costruire le condizioni perché queste persone, questi saperi possano esprimersi, no? Cioè possano esprimersi, elaborare e crescere, no? Sapendo che c'è bisogno di crescere, però che si può, no? Cioè che non dobbiamo per forza abbeverarci a queste fonti, ecco, né in quelle di chi dice basta esperti, decide il capo. E partire dai margini e apprezzare il margine in quanto esso stesso, cioè, rappresenta la realtà, non continuare. E l'università, secondo me, in questo deve fare un sacco di autocritica perché ha giocato molto nel legittimare la scienza. Continuo, sì. E noi siamo dentro questo sistema dove Siamo dentro un sistema che continua a dirci che l'università in quanto istituzione ha per forza una predominanza nel campo della conoscenza e che tutto ciò che sta al di fuori dell'università ha di partenza meno legittimità. E purtroppo tante università e tante dinamiche fanno leva su questo per continuare a mandare avanti. Purtroppo, questo è un mio parere personale, non è quello che dice, cioè non sto qua mettendo parole in bocca a Davide, però c'è tanta autocritica da fare su come si gestisce la ricerca e su come si viene a dire che un certo tipo di ricerca è per forza quella giusta o quella che serve agli altri. Infatti, ZAM, c'è l'idea anche di lavorare insieme su un'università popolare e di capire. Però mettere a sistema questa strada stretta che insomma dargli degli alberi, delle tante tante belle cose che già ci sono, insomma. Va bene, vai, domanda. No, vai. Quanto tempo abbiamo ancora? Mi sa che per le, sì, 10:30, poi ci andiamo. Mi metto qua. E farò un paio di considerazioni, ma alla fine scaturirà anche una domanda, che però secondo me non avrà una risposta. Però e, personale interpretazione su un argomento che non conosco, quindi tutto quello che so l'ho assunto adesso, se non per il fatto che spesso ho partecipato a bandi cariblo perché lavoro nel teatro, e il teatro indipendente un par di ciufoli a Milano, in Lombardia, va avanti a furia dei bandi cariblo, è una cosa che sento continuamente, anche se non li faccio io, faccio la parte di audio di solito, c'è qualcun altro che si accolla tutta questa pratica. E mi sembra che la situazione che descrivi sia una fotografia a vari livelli di zoom, no? E la parte più piccola, quella in cui vediamo gli operatori all'opera, è tipo una sorta di la banalità del male 2.0. E quindi tutti gli operatori, sia quelli che lavorano sul campo, sia il progettista, siano queste macchine automatiche, possiamo dire come delle macchine automatiche che per la loro sopravvivenza lavorano all'interno della struttura che viene loro offerta. E poi apriamo un altro livello di zoom e ci sta quella situazione dei rapporti che vanno oliati attraverso le fondazioni, quindi i rapporti di tutte queste istituzioni e micro istituzioni che devono lavorare bene insieme, stare bene insieme. A un livello ancora più alto, non so se è qui un po' l'interpretazione, prima pensavo questi poi si autovalutano. Le fondazioni si autovalutano, tutti quanti ci autovalutiamo e cerchiamo di valutarci con indulgenza e dici, ma se la valutazione è così indulgente, dov'è l'efficienza? Cioè, in qualche modo, da qualche parte, tutto questo sistema deve fare acqua. E invece non fa acqua, tiene, sta in piedi e sta in piedi molto bene. E quindi la risposta che mi sono dato è che il cuore di questa situazione... e tutto il sistema dei finanziamenti del welfare demandato alle fondazioni è risignificato nel suo scopo, da andare sui bisogni primari, andare sui bisogni secondari, terziari e velleità, financo velleitari, no? E allora perché? A che serve tutta questa cosa? La risposta che mi sono dato è quella di addormentare il conflitto. Gli abitanti del quartiere si possono lamentare, in fondo ci sono sempre delle persone che pensano a loro, ci sono delle cooperative, ci sono delle situazioni, le persone delle cooperative si possono lamentare, ma in fin dei conti no, perché hanno trovato un modo per continuare a restare in piedi, a tirare a campare, a tenere comunque questa cooperativa che è nata con scopi nobilissimi, sono persone nobilissime, la cooperativa sta in piedi, poi vabbè, la fondazione sta in piedi proprio con questo scopo, quindi tutti quanti stanno in piedi. E dov'è lo spazio per il conflitto qui? Sembra quasi che venga sfilato via un po' alla volta da sotto i piedi e improvvisamente siamo tutti abbastanza, almeno quelli che avrebbero la coscienza per confliggere, si sentono tutto sommato abbastanza comodi per stare abbastanza tranquilli. Allora adesso si diceva cosa si può fare. C'è questo sentiero piccolissimo che è quello all'interno del quale noi cerchiamo di mantenere invece una consapevolezza, una coscienza di queste dinamiche, di quello che comportano, fino al punto magari appunto di rischiare e quindi anche rompere i coglioni con questa consapevolezza, fino al punto di rischiare di essere tagliati fuori perché rompi il cazzo, perché c'è comunque tutte queste cose anche utopistiche di visione macroscopica delle cose, a un certo punto non serve sul piano concreto del quotidiano dove si campa. E esatto, facciamo sto business, andiamo a fatturare. E allora la domanda è, per essere efficienti, non dico per noi stessi, ma per dare un senso non velleitario al nostro rompere i coglioni, quale può essere, cioè dov'è che possiamo andarli a rompere pensando di non farlo pulendoci la coscienza, ma fare qualcosa effettivamente in questo senso qui? Bravo, grazie. No, dai, perché era anche la domanda che mi facevo io e che a volte facciamo rispetto all'università, no? Perché anche stare dentro all'università consapevoli che ci sono il problema, si rimane sempre in piedi, eccetera, finché guardi il torticello, fai il bando, il concorso, eccetera, poi arrivi ripeto, la domanda quindi che... anch'io vorrei anch'io vorrei una risposta è una questione che magari non si chiude, però volevo comunque avvisare. Certo. Certo. No, no, grazie. Altre domande? No, è proprio la questione. Cioè, diciamo che in quel sentiero lì stretto ci sta questo conflitto, per forza. E che... Posso provare a salvare la vita un attimino? Vai, vai, vai. No, nel senso che... molte parti di movimento in questa città molte volte hanno detto tanto peggio tanto meglio, cioè allora dato che ti danno le briciole, con le briciole ci sopravvivi e quindi tutto sommato ti va bene, allora togliamo anche le briciole, quindi rifiutiamoci di fare assistenzialismo, rifiutiamoci di accogliere le persone in casa, rifiutiamoci di distribuire pacchi alimentari durante il Covid, perché se lo fai stai semplicemente dando alla gente quello che gli basta per sopravvivere e rimanere quieta in questo stato di apatia, ibernazione mentale, non so, cioè una volta che uno si è riempito la pancia, fine, il resto non ci pensa, cioè ti danno tutto quello che serve per sopravvivere, ma mancano completamente tutti gli elementi per vivere una vita vera, cioè soddisfacente, interessante, no? Puoi andare a scuola, sì, ma tanto all'università non ci puoi andare, puoi andare all'università, sì, ma tanto non puoi uscire dal tuo tracciatino. Prima, mentre parlavi del fatto che casualmente quello che era il professore Dalla Bocconi che ha scritto i criteri di valutazione dei bandi, poi è finito a guidare il più grande ente che dà i bandi e ci raccontano che con la meritocrazia possiamo cambiare la nostra vita. Cioè, minchia, è incredibile, no? Cioè, devi essere in quel circolo lì, se non hai quel circolo lì, se non hai pagato l'ingresso a quel circolo, che sono le rette della Bocconi, non puoi entrare in quel circolo lì. E allora se sei nato in Barona e in casa tua ci piove, non hai i soldi per pagare l'ingresso in quel locale esclusivo, non ci puoi entrare mai, no? Quindi c'era quella parte lì che diceva una cosa molto chiara: rifiutiamo qualunque cosa, la dico male, spacchiamo le ambulanze, perché se non arriva più l'ambulanza, la gente che sta morendo, forse i familiari inizieranno. In realtà col Covid è successo questo, ma purtroppo 16.000 morti in Lombardia, non sono morti più che a Wuhan, la gente non si è ribellata. Ora la metto molto più leggera, sennò mi viene veramente anche a me un attimo la depressione. Ha avuto con la solita battuta il grande Vate Barbero, in una delle varie registrazioni che abbiamo mandato ormai a memoria, dice questa cosa molto semplice, che chissà se è vera, nel senso lui la dice, ma lui stesso dice quello che io ho percepito, immagino, eccetera. La gente fa una rivoluzione quando ha la reale percezione che provando a cambiare qualcosina veramente può migliorare le sue condizioni di vita. Cioè negli anni 70 la gente non c'erano i diritti dei lavoratori, cioè se li sono conquistati perché dicevano cazzo, se facciamo il prossimo sciopero li prendiamo, perché lo vedi che il padrone è tirato, è nervoso, chiama gli sbirri, quelli non vengono perché siamo in centro, facciamo i macelli, quindi cioè insomma forse ce la facciamo, no? È il forse ce la facciamo che porta la gente a muoversi veramente. Il problema è che in questo momento, adesso di nuovo torno con le battute ma non so neanche, prima giustamente Chiara sollevava il socialismo reale, cioè manca l'alternativa, manca quel sistema di pensiero che poteva dare alle persone, punto primo, un'identità, un'aggregazione, perché avevi il tuo circolo, i tuoi amici che facevano parte del tuo partito, di cui ci faceva parte anche tuo padre e tuo nonno, e erano, sono gli ideali di famiglia, e allora è quello in cui credo, poi cioè ho degli ideali collettivi da condividere con altre persone che sono come me, che mi fanno sentire parte di un qualcosa di più grande e che quindi se ne faccio parte poi posso raggiungere anche degli obiettivi per me stesso. Mancano queste cose e secondo me manca proprio in maniera gigantesca un'alternativa seria anche per esempio al criterio di sapere, cioè che cosa è da sapere, come vogliamo noi sapere le cose, tutte queste cose mancano. E per esempio, e me lo diceva Chiara 4 giorni fa, cioè nei paesi socialisti avevano un altro modo di organizzare la costruzione del sapere e di indicare come si doveva sapere, come si dovevano sapere le cose. Poi si arrivava anche alle follie, tipo non si può studiare la relatività perché sennò vuol dire che allora non c'è più il tempo uguale per tutti e allora cioè, viene messo in dubbio il marxismo perché la relatività ristretta mette in difficoltà la percezione del tempo. questo no, lo diciamo Orfino, però tu ci lavori come figlio, quindi tutto quanto tornato sempre lì. Quindi scusate, questa la diceva il professore Morfino in un corso all'università di teoria critica della società, sulle teorie del tempo, vabbè. E in poche parole, però, tornando al discorso di prima, così tagliamo anche, cioè manca obiettivamente un sistema di idee in cui le persone si rivedano, e anche un sistema di gruppi di idee che possano dare alternativa a questo mondo. Cioè, veramente, non c'è alternativa, bisogna fare così, i tecnici sono là, dicono quello che si deve sapere, che viene raccontato nell'università di economia e commercio, che per mia disgrazia ho fatto anch'io, e alla prima lezione ti dicono questa cosa qua è un progetto su un foglio. Noi organizziamo le quotazioni del mercato mondiale, ma gli esseri umani non decidono come c'è scritto qua. Cioè, è anche molto chiara la cosa, no? Però abbiamo capito che prima era comodo, sì, ma non funziona, non è reale. Domande di un compagno di corso, però c'è questo. Punto. E vabbè, quindi forse il problema vero è creare, costruire, dimostrare che un'alternativa esiste e che si può fare, tornare a ripetere questa cosa di rivoluzione reazionaria molto allucinante, per cui cioè, basta dire 30 anni fa esisteva l'alternativa, adesso magicamente non esiste più perché è autoimplosa e quegli altri hanno vinto. Scusami, dai, spero avete dato il tempo per pensare a una risposta più seria, ho fatto stato il rompibuchi. Volevo sottoscrivere invece. No, io sono molto d'accordo anche su questo. Penso che sia un'altra delle grandi robe successe, no? Cioè che con tutti i limiti, eccetera, però è venuta meno un orizzonte di possibilità alternativo. E l'orizzonte di possibilità alternativo che si affaccia adesso non è tanto incoraggiante, no? Cioè la fine delle democrazie liberali che viene ventilata in nome delle democrazie illiberali non è tanto incoraggiante, no? Il modello di Orban e dintorni piuttosto che... Quindi fa paura. Però quello spazio lì c'è anche tante cose che hai detto tu sono molto... che avete detto voi nei vostri interventi mi sembrano molto ricche di respiro invece, no? E di immaginazione, di cose possibili. Penso che su questo livello qua, a tutti i livelli, da quello dell'esperienza quotidiana a quello dell'orizzonte, è proprio il lavoro da fare su cui mettersi insieme. E comunque sono pur sempre persone, mi sento di dire, cioè queste persone che abitano... Se gli spari, hai ragione anche tu! Anche se appartengono a delle classi privilegiate, comunque il loro potere non è scontato e quindi si può partire forse, non lo so come la pensiamo, però mi avete stimolato pensando a questo, perché comunque sono pur sempre persone che anche loro quotidianamente devono fare cose per continuare a confermare la loro legittimità, e anche forse in questo fatto c'è lo spazio di riuscire a dire, a contraddire quello che loro devono fare quotidianamente per riaffermare il loro potere, no? Cioè, sabotaggio, critica aperta, nomi e cognomi, esporre le reti, esporre questi gruppi, cioè far vedere che appunto, secondo me uno dei pregi del libro di Davide è articolare quanto c'è ambiguità, come diceva prima, questi termini che sono diventati così dominanti in realtà sono tra virgolette vuoti, e quindi attaccare forse anche il modo in cui hanno costruito attraverso l'ambiguità dei significati, no? Cioè non lo so, perché comunque non sono Gesù Cristo o esseri con superpoteri, sono pur sempre persone che appunto vivono nella nostra stessa realtà, si interfacciano con problemi, magari ovviamente di grado minore rispetto a quelli delle altre persone, ma già metterli in un altarino troppo più alto del nostro, cioè troppo più alto, diciamo, troppo rischia di togliere a noi il nostro potere di poter riuscire a dire qualcosa rispetto a queste cose, no? Il principio del mega direttore galattico. Del? Il mega direttore galattico. Non lo so, insomma, questo era un po' la così la riflessione. dipendono da, dallo sfruttare persone. Sì, comunque diciamo un po' forse c'è questo tema della diciamo di coltivare una fiducia, no? Una fiducia nelle possibilità, una fiducia non ingenua, ma una fiducia è un pezzo necessario, no? Perché la tendenza appunto a un po' a mollare, anche, no? Anche dopo dici ok, faccio una critica, adesso mostro tutto, cioè come dire, mostro quanto è stretto, sono strette queste maglie, mostro quanto tutto in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, può essere fatto risalire lì, c'ha una dimensione anche disperante, no? Cioè, diciamo, beh, quindi diciamo, ho capito che non ce la posso fare, no? E invece tenere vivo uno spazio di azione, di possibilità, di che deve essere, sì, vabbè, poi insomma sono banalità adesso dette così, però diciamo che abbia una dimensione collettiva, che tutte queste cose. Mi viene in mente che c'è stato, che domani c'è lo sciopero nazionale degli operatori sociali, c'è un'assemblea a Milano al pomeriggio, che diciamo delle cose si muovono nel piede, adesso stando sul piccolino di questo mondo, no? E sarà, non saranno tanti, ma diciamo è un nucleo di gente che continua su queste cose a riflettere, a pensare, o magari invece saranno anche più di quelli che ci si aspetta. Non lo so, cioè c'è bisogno anche di nutrire la speranza, no? Da dire in questo scenario così. Quindi bisogna, anche questa è una cosa. Poi tu subito, no? Lavori nel teatro, hai dato questa immagine a tre dimensioni. Bisogna, no? Lavoriamo, cioè anche così, anche visualizzare, anche trovare dei modi di raccontare queste cose come sono e come potrebbero essere, che ci mantengano un po' il respiro un po' più ampio di quello che ci viene altrimenti, no? Quindi, nel senso, le risposte più sociologiche le avete date voi, adesso a me viene da stare su questo piano, le domande e le risposte le avete date voi negli ultimi 2-3 interventi, per cui sto su questo piano un po' più, diciamo, però grazie.